24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Francesco Starace, 60 anni, sposato con due figli, laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, globetrotter, una carriera in giro per il mondo, lavora negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, Egitto, Bulgaria e Svizzera. Dal 2000 entra all'Enel, dove ricopre molti incarichi, fino a essere come amministratore delegato di Enel Green Power, l'uomo che colloca in borsa il 30% del capitale sociale. Poi dal maggio 2014 amministratore delegato, direttore generale dell'intero gruppo. Il gigante dell'energia, presente in 30 paesi, seconda utility d'Europa per capacità installata. Nel tempo libero è un appassionato ciclista e un divoratore di poesie. Come numero uno dell'Enel deve affrontare tanti problemi, da quelli della sovrapproduzione di energia e della chiusura di 23 centrali in un momento di crisi e di esplosione delle rinnovabili, a quelle del debito seguito all'acquisizione di Endesa, il colosso spagnolo dell'energia. E un anno fa il suo predecessore Fulvio Conti, qui a Mixer, sul debito diceva: le do una notizia, a fine anno probabilmente saremo a 40 miliardi di euro di debito. Cioè, da 44 a 40. Esattamente. Eh? Allora, ingegner Storace, in un anno lei di quanto è diminuito il debito? Eravamo in effetti a 40 e siamo arrivati a 37,4, quindi la febbre sta scendendo. Vabbè, insomma, buon risultato. Siete un gigante dai piedi d'argilla con un debito così, però? No. Perché? Perché vede, non è tanto il numero del debito, ma quanti soldi uno riesce a fare tutti gli anni per servirlo quel debito. Quant'è la nostra capacità di fare cassa. E quindi non è preoccupato da quel punto di vista? No, tant'è che anche le agenzie di rating ce l'hanno confermato. Riconosciuto. Sì. Senta, ingegnere, l'acquisizione della spagnola Endesa vi ha reso effettivamente un player globale, ma è stato un passo più lungo della gamba? No? Direi proprio di no. Ah. No. No, cioè una scelta giusta in un momento giusto o in un momento sbagliato? La scelta giusta al momento era giusta ed era purtroppo il 2007, poi è successo quello che è successo. 2008 uno dice, però forse è rimasta una scelta meglio. Giusta. Insomma, un'eredità difficile, strategica ma difficile delle racconti? Pensi, io penso sia soprattutto strategica. Pensi che oggi noi abbiamo circa il 40% dei nostri profitti, del nostro margine operativo lordo dall'Italia e il 20% dalla Spagna, l'altro 20% da Sud America che è venuto con Endesa. Quindi ha riequilibrato molto. Ha riequilibrato. Senta, del primo anno del suo mandato, qual è la cosa che ha fatto di cui è più fiero? La riorganizzazione che abbiamo fatto nel gruppo, che era questa necessaria. Poi ne parliamo. Sì. Ecco, è il problema numero uno da risolvere subito? Adesso il problema numero uno che abbiamo è la complicazione estrema degli assetti societari in America Latina, che è veramente difficile. Perché? Perché è un intrico di società veramente inestricabile che dobbiamo in qualche maniera sbrogliare. È una vera e propria, un vero e proprio sudoku. Ecco, a guardare il vostro sito, sembrate campione del mondo di tutto praticamente. È il racconto dell'Enel che c'è o dell'Enel che ci sarà? Un po' renziano, insomma, sto sito. È un sito, ma non dire renziano, anzi è un sito che stiamo rinnovando perché è un po' vecchiotto ed è un po' enfatico, sì. È un sito un po' retorico che va... Però dice la verità, la dice in modo un po' vecchio, ma dice la verità. Troppa enfasi da ridire semplice. Sì, va un po' semplificato a seguire del discorso fatto precedentemente, sì. Senta... Io chiedo però, perché ho letto sull'Economist che i fornitori di energia elettrica, cioè quelli come voi, devono affrontare una vera e propria minaccia esistenziale, dice l'Economist. Insomma, siete a rischio, no? Tutto questo settore sta attraversando una trasformazione esistenziale, la parola è giusta. Noi siamo andati molto meglio di tutti gli altri, proprio perché ci siamo un po' molto ribilanciati. Pensi che noi nel periodo dal 2008 al 2009 adesso abbiamo avuto comunque un ritorno totale del valore del 24,4%, laddove quasi tutti i nostri competitor sono andati con il meno davanti e due digit, quindi siamo andati bene. Però è vero, il settore è in gran rischio. Perché l'Economist dice che le prime 20 società energetiche dal 2008 a oggi hanno dimezzato il loro valore. Anche voi siete in questa classifica? No, noi come dicevo abbiamo avuto un più davanti, un più 24% nel periodo. Dal 2008? Dal 2008. Gli altri, c'è anche chi ha fatto meno 60%, non voglio fare nomi, però... È tutto un discorso di tecnologia e di diversificazione. Senta, ma a cosa serve aumentare la capacità produttiva se il cavallo non beve? non serve, infatti non va fatto. Però capita. C'è chi l'ha fatto più degli altri, l'intero settore ha esagerato, noi molto meno, però c'è stato. Questo errore c'è stato. Ma in Gestara, cioè, avete chiuso le 23 centrali per questo proprio? Le 23 centrali sono in chiusura perché la domanda è scesa e ci sono stati grandi investimenti in altre centrali più efficienti e questo le ha spiazzate. Senta, però in generale, ingegnere, quando sul mercato un prodotto non va o va meno perché tira meno, in genere si abbassa il prezzo. Con le vostre bollette mi pare che non capita proprio, perché? Allora, il prezzo dell'energia è davvero sceso molto, è sceso quasi più del 30% nel periodo, quindi eravamo 87 euro, siamo quasi sotto i 50 ormai. Però una quello che, non si quello vede, che è salito sono tutte le altre componenti che sono purtroppo molto meno in controllo da parte nostra. Siete come il prezzo della benzina più o meno, insomma. No, non facciamo paragoni impropri, ecco. Non è così. Ma scusi, quando la legge, se la legge, lei la capisce la bolletta? Io la leggo e la capisco, però perché sono un addetto ai lavori, esatto, un ingegnere. Sono il primo a dire che va cambiata e soprattutto va semplificata. Tra l'altro stiamo lavorando duramente per renderla anche informatica, quindi mandarla non più solo con la carta, ma soprattutto via web. Non possiamo decidere da soli, è un discorso di sistema e quindi c'è un dialogo in corso per semplificare. Ma quanti sono in media i ricorsi che ricevete? Noi facciamo 150 milioni di bollette all'anno e riceviamo 26.000 ricorsi, chiamiamoli proteste. Errori, insomma. Che sono, proteste che sono da errore. Sono o da errore o da correzioni da fare perché alcune delle informazioni del cliente stesso non c'erano state comunicate, quindi c'è un po' un misto. Però non ha mai pensato che è così complicata, perché sono complicate, tanto che le vuole semplificare. Sono un po' un'istigazione a delinquere queste bollette, eh? No, la bolletta di per sé non istiga no, nel senso che uno fa dice, vabbè, nervi, questo magari sì. Senta, alla RAI il 30% non paga il canone. Da voi quanti rubano l'energia? Molto meno. Molto meno? Molto, molto meno. E diciamo la verità anche perché abbiamo un sistema digitale che rende la cosa molto difficile. Senta, Gianni Starace, lei lo sa che una delle ragioni principali per cui gli stranieri non investono in Italia è il costo dell'energia? Non so se sia ancora vero questa faccenda. Non, è più alto d'Europa? Non è proprio così, perché per esempio in Germania i tedeschi pagano più di noi, i cittadini tedeschi, e le grandi aziende pagano più o meno lo stesso, sono le piccole aziende che hanno un trattamento differente. L'Europa è un vero e proprio puzzle dal punto di vista tariffario, quindi questi confronti bisogna stare molto attenti. Da fare. Dice che non è il più alto d'Europa, lei dice. Non è. Non siamo. Lei, Nele, è stato il re delle energie alternative, che costano sempre meno. Perché non incidono ancora sulla bolletta dell'energia? In realtà stanno incidendo sul costo dell'energia in sé. Sempre prima che arrivi io a pagare, insomma. Ma hanno avuto nel passato questi incentivi che adesso tutti quanti stiamo pagando. Tra qualche anno questi cominceranno a venire giù e quindi si vedrà il vero impatto, che nel ventennio è positivo alla fine. Senta, l'esplosione del solare, dell'eolico in Germania e Spagna, per esempio, hanno trasformato il modello energetico di quei paesi. Da noi? Beh, anche da noi è successo. Sarà così completamente? Guardi, da noi siamo in Italia nel futuro rispetto ad altri paesi. La Germania sta facendo una trasformazione che in 12 anni la porterà a un mix energetico quale quello che abbiamo noi adesso. Siamo 15 anni avanti da Germania? Sì. Gli ha detto a me. Da questo punto di vista sì, lo sanno. Lo sanno, va bene. Sì. Senta, ma c'è un conflitto tra la potenza termoelettrica che cresce e quella delle energie alternative? Non è un conflitto, è un aggiustamento. C'è un mix da trovare? È un bilanciamento da trovare, che ci vorrà un po' di tempo, ma l'avrà trovato. Ma quindi alla fine l'Enel... E nel medio periodo crescerà solo nelle rinnovabili? L'Enel crescerà nelle rinnovabili più che nel termoelettrico, molto di più, e crescerà molto nelle reti. Noi crediamo molto nella distribuzione e nella trasmissione di energia. Se ne parla poco, ma è il futuro. Cioè? Man mano che la produzione diventa disponibile a tutti, è importante come questa produzione viene distribuita. Certo. È lì che si concentra il valore del futuro. Ecco, a proposito di questo, le rinnovabili, a differenza di quella termoelettrica di energia, va subito in rete e se non è utilizzata si disperde. Ma riuscirete a stoccarla per non perderla? Sì. È un problema quello dello stoccaggio? Non è ancora un problema, anzi direi che nel tempo potrebbe diventare un'opportunità man mano che si diffondono determinate tecnologie. Cioè, perché per adesso va in rete ed è consumata. Adesso va in rete consumata e come lei ha visto il termoelettrico fa la differenza. Certo. Poi ci sono i pompaggi, ci sono vari sistemi. Man mano che questa penetrazione aumenta, ci devono essere altre tecnologie che permettono di immagazzinarla localmente. Ecco, ma è nell'eterna, nella corsa, questi modelli di stoccaggio per le rinnovabili sono, siete in concorrenza oppure andate di conserva? Andiamo di conserva perché lavoriamo su diversi sistemi. Loro lavorano sulle ad alta tensione, noi teniamo sotto controllo la bassa e la media tensione, quindi sono veramente sistemi diversi, tra di loro che non dialogano. Ma i privati che producono energie rinnovabili, che vi chiedono gli allacci, perché voi siete padroni dell'allaccio, le ottengono questi allacci o devono diventare pazzi per averli? Guardi, noi abbiamo avuto due conosco anni conosco di storie di persone che ci sì, hanno messo so, tanto so. Noi abbiamo avuto 2 anni e mezzo di tsunami perché ci sono stati circa 500.000 richieste di allacci in un periodo concentratissimo e abbiamo fatto fronte, ci saranno pure stati casi difficili, certo, però sì. Abbiamo fatto fronte in maniera incredibile, anche perché avevamo una rete digitale. Oggi come oggi il tema è abbastanza sotto risolto, controllo. Cioè, se uno la vuole la ottiene, sì. Chiedetevi, sarà dato, diciamo. Sì, diciamo, non ci diamo queste arie. Non arrivate a fine. Quindi nessun conflitto con i privati che producono rinnovabili? No, anzi, una buona sinergia da questo punto di vista. Senta, a proposito delle richieste, il governo vuole privatizzare ancora quote di Enel per fare cassa. Lei è d'accordo? Dovrebbe chiedere al governo. Io, come gli azionisti sono liberi di fare quello che vogliono, non è che devono chiedere il nostro permesso. No, vabbè, ma lei ha un'opinione? Non ho un'opinione particolare. Non è importante avere tot numero di azionisti o tot più uno, non cambia niente. Sì, basta che siano contenti. Noi lavoriamo perché siano contenti gli azionisti. Senta. Lei, prima di diventare il numero uno di Enel, era soprannominato il Globetrotter, l'abbiamo detto, della società. Le manca non esserlo più? Non me ne sono ancora accorto. Ah no, continua a girare come un pazzo? Senta, la crisi greca ha mostrato tutti i limiti di questa Europa burocratica e praticamente senza anima. Voi sentite il peso di un'eurocrazia che non aiuta lo sviluppo o no? Lo sentite questo peso? Non tanto. No? No. Anzi, secondo noi c'è bisogno di maggiore integrazione europea del nostro settore. No, ci sarebbe un valore. La vogliono tutti, ma poi ci sarebbe valore. Quali sono i costi? Nessuno li vuol pagare. Prodi, per esempio, che è stato un padre dell'Europa e dell'euro, dice che l'Europa a trazione tedesca ha fallito, che è un'Europa germanizzata, non una Germania europea. Beh, i bilanciamenti tra importanza dei singoli paesi è un problema europeo da sempre, diciamo dalla pace di Vestfalia in avanti è sempre stato un tema, quindi non credo che di colpo solo perché c'è un'Europa il problema potrebbe essere... Senta, sul Sole 24 Ore, l'ingegner De Benedetti ha scritto che l'Europa finanziaria è un brutto sogno che non avremmo mai dovuto concepire. Lei è d'accordo? Che cos'è l'Europa finanziaria? In realtà c'è un mondo finanziario, l'Europa da sola dal punto di vista finanziario non c'è nessuno che lavori in isolamento, quindi secondo me forse se è un brutto sogno è un brutto sogno di tutto il mondo, non solo dell'Europa. Cioè il primato esagerato della finanza, questo? Chiamiamolo brutto sogno oppure un'esagerazione, ma comunque non è solo un problema europeo. Sì, lei diceva che il modello, la cosa di cui è più fiero è di aver semplificato il modello di organizzazione, cioè la ristrutturazione dell'Enel. In che senso? Nel senso che abbiamo capito che cosa facciamo, che è molto semplice, produciamo energia, la trasmettiamo, la distribuiamo e ci facciamo pagare. E ci siamo organizzati secondo queste 4 linee in tutto il mondo. Dopodiché abbiamo preso le regioni in cui siamo, abbiamo detto ci sono dei manager che seguono anche i clienti che stanno in queste parti del mondo. È una matrice molto semplice. Sì, sì. Organizzazione a matrice, ingegnere, sì. È uscito l'ingegnere. È un pochino, ogni tanto ci vuole. In un anno appunto ha fatto questa rivoluzione organizzativa anche di uomini. Per farlo, per scegliere gli uomini, lei si fida di più del suo intuito o delle società dei cacciatori di teste? Perché adesso arrivati all'algoritmo, sì, cioè praticamente non si parla più con nessuno. L'intuito è sempre importante, però quando lei parla di scegliere 200 persone si deve fare aiutare. Perché ma aiutare fino a che punto? Beh, ci sono dei processi di selezione, di valutazione, obiettivi dei manager secondo certi criteri. E poi arriva lei però, a un certo punto o no? A un certo punto sì. A un certo punto sì. E cosa cerca di più nelle persone? Cerco intelligenza, onestà intellettuale e carattere. I giovani che cercano lavoro, che caratteristiche, beh, un po' l'ha detto, devono avere per bussare da voi? Queste, Prima di tutto devono aver fatto molto bene l'università. Studiato. Devono aver studiato, perché se non hanno studiato è difficile che lavorino bene, mi dica, che, almeno da noi. Poi Senta, dopo... Lo fanno in molti, bussano in molti da voi? Sì. Assumete o non assumete? Abbiamo assunto e continueremo ad assumere. Quanti? Mi dia un numero. Beh, abbiamo fatto 1600 assunzioni lo scorso anno, quest'anno siamo probabilmente ne faremo un altro centinaio, 150. L'anno scorso abbiamo dovuto fare un grande cambio. Però, 1500? Sì, 1600 credo. 1600. E quest'anno 200-300? Quest'anno forse meno, forse un po' meno. Senta, intanto questi piccoli segnali di inversione di tendenza all'economia di cui parla il governo, voi li percepite? Sì, ci sono stati per la prima volta da 4-5 anni ormai, quindi si è visto una lieve ripresa dei consumi, un aumento delle richieste di allacciamento che sono le persone che ricominciano a lavorare. Certo. Quindi dal nostro punto di vista qualcosa si è visto, qualcosa. E quindi non mi sorprende che poi si dica il PIL è un pochino ripreso a funzionare. Cioè. Senta, lei è stato nominato amministratore delegato di Enel da Renzi, lo conosceva prima? No. No? No. E le piace? Sì. Che cosa di più? Che ha le idee chiare e decide le cose da farsi, quindi si è cominciato un percorso di riforme che bisogna cominciare a fare. Forse che poverino non c'ha molto tempo a disposizione, perché la cosa più importante nel nostro paese è la tenuta a lungo termine. Senta, cioè più deve essere più fondista, diciamo? È una maratona cambiare l'Italia, quindi ci dubbio. Vuole molta capacità. Senta, ingegner Staracci, ma pensa che la sua azione di governo intanto vada nella direzione giusta? Sì, le riforme da fare erano quelle. Intanto li ha coinvolto in un'operazione di modernizzazione del paese indispensabile, che è la creazione della banda larga. Lei ha detto, l'ho letto, con l'Enel si cambia l'Italia, si spende un quarto. Perché? Se noi Ma un quarto rispetto a chi? Un quarto rispetto alle cifre che sono state date agli operatori telefonici. E perché? Noi abbiamo un programma di cambiamento dei contatori digitali, che abbiamo messo 15 anni fa e adesso vanno cambiati. Se si fa coincidere la cablatura delle case con... È un lavoro solo, Invece di due. E quindi... Senta, ma quindi la posa delle fibre ottiche nei condotti dell'Enel risolve il problema? Un bel po' del problema, ma non tutto il problema. Cosa manca? Manca tutta l'ultimo la cablatura, pezzo? No, quello sopra, manca la cablatura delle stazioni delle telefoniche che non sono ancora completamente cablate. E poi bisogna che ci mettiamo d'accordo su questo concetto, non è che noi ci possiamo forzare. Cosa vuol dire? Bisogna che gli operatori telefonici trovino questo concetto giusto per loro. Noi non possiamo obbligarli, diamo una questa disponibilità. Cioè loro possono non essere interessati a passare dalle vostre potrebbero voler scegliere altre strade pagando 4 volte di più, non lo so, però no, dice lei. Io dal mio modesto punto di vista penso che fare un lavoro 2 volte, ma c'è un punto di collaborazione con l'Enel e con la Telecom adesso? No, stiamo lavorando nel dettaglio tecnico per definire proprio questo. E gli ostacoli maggiori quali sono a questa collaborazione? Guardi, sono la novità della cosa. Di solito le persone di fronte alle cose nuove hanno un momento di esitazione, vero? Però poi... Però questa secondo me è il problema. Interessante. Vabbè, quindi questo cambio di azionariato per esempio a Telecom potrebbe favorire l'arrivo di Bolloré, non si sa, non ha un'idea? Francamente non lo so. Non ha idea, lo conosce? Non l'ho mai incontrato. No, vabbè, lo incontrerà sicuro. Senta, voi quanti sono i contatori che dovete sostituire? Noi abbiamo circa 33 milioni di contatori digitali nelle case di 33 milioni di... E li sostituite in un anno? Quanto no, ci metteremo 3 anni e mezzo, 4. Ma dopo lo stop del decreto del governo, che cosa cambia? Cambia qualcosa? Il decreto della banda larga? No, per noi non cambia niente. No? No. Voi eravate operatori telefonici con Wind, sì. L'avete venduto, è contento oppure c'è un rimpianto? Oggi potrebbe essere utile. No, sono contento, cioè, è passato, come tutte le cose passate, non ho nessun rimpianto. No, nessun rimpianto. Senta, il cambio della guardia a Cassa Depositi e Prestiti per voi è rilevante? Non sono nostri azionisti, è il tesoro nostro azionista, quindi chiaramente è importante, è importante a livello Italia, è importantissimo, però... Direttamente no. No. Senta, dopo il semifallimento di tutti i summit sul clima, perché più o meno parole, ma poi... Lei invece è ottimista, l'ho letto su Le Monde, sì, è ottimista per la prossima conferenza di Parigi. Perché? Perché era Le Monde? Diciamo bella domanda. No, perché non era Le Monde, io non sono notoriamente francofilo, però è perché una volta si sta smettendo di andare a dei target impossibili, un accordo in cui ci siano tutti. L'importante per l'industria di cui noi siamo parte è che la direzione sia indicata. E questo in questo momento è così. E questo è quello che sente di diverso nell'aria? Sì, perché l'Europa ha deciso il pacchetto del 2030, quindi come vogliamo essere nel 2030 e ci siamo messi d'accordo dopo una lunga lotta. La Cina, quello che deve fare, lo sta facendo. Io sono convinto che tra due summit del clima saranno i cinesi a dire a noi come mai siete così indietro, dato il lavoro che stanno facendo. Gli Stati Uniti con la Cina hanno fatto un accordo proprio in questo. E quindi diciamo che c'è un bel po' di mondo importante. Sì. Lei dice puntiamo ad avere zero emissioni di CO2 nel 2050, questo è il target? Sì. E ci crede? Sì, sì, sì. Senta, intanto nel sociale voi avevate un impegno forte con Enel Cuore, continuate? Continuiamo, sì. Come? Enel Cuore anzi lo abbiamo focalizzato completamente sull'Italia, quindi prima era dedicato a tutto il mondo, quindi si disperdeva, devo dire la verità, un pochino. Sì. È tutto per l'Italia e l'Italia in questo momento ha un gran bisogno di azioni di sostenibilità. Non parliamo di carità, parliamo di sostenibilità. No, sostenibilità. Senta, lei è un ingegnere nucleare, l'abbiamo detto. Mi pare che con il lavoro che fa, con le rinnovabili soprattutto, un po' l'ha tradito gli studi originari. Guardi, io ho fatto non un ingegnere so nucleare, mi piaceva la fisica e la fisica vale ancora, sì, grazie a Dio. Sì, per fortuna. Ecco, e ne ho capita tanta facendo nucleare. E tutti questi studi mi sono serviti in tutta la mia carriera, tra l'altro è stata la gran parte nelle energie termoelettriche, gas soprattutto, quindi no, non mi sento di averla tradita. Senta, ma il nucleare, no, era per parlare del nucleare, il nucleare che ci circonda comunque dappertutto, noi non lo vogliamo però ci circonda, facciamo bene a non volerlo? Direi che questa tecnologia secondo me ha fatto il suo tempo, andava forse bene negli anni 60, negli anni 80, non, è come una di quelle, sa, come quei dinosauri che dopo un po' si estinguono, cioè, ma è proprio il nucleare, non è un'evoluzione tecnologica sufficiente. No, ci sono nuove tecnologie nucleari che non sono derivate dalle applicazioni militari, che sono quelle che oggi ancora abbiamo, che potrebbero dare una nuova vita nucleare su ma, no, ma lei lo dice, è un settore su cui adesso al parliamo di là del fatto che noi non parliamo di vent'anni da adesso, non, lì per lì, oggi questo nucleare che abbiamo chiudo, meglio che ci fermiamo lì. Quello che funziona, teniamolo in funzionamento, teniamolo bene, per carità. Nuove centrali sono un problema. Senta, ma lei che è un gran ciclista, tanto cosa fa? Non sono un gran ciclista, un ciclista così. Della domenica. Ah, della domenica, mi così. Alleno. Si allena, ma fa qualche, per esempio il Giro delle Dolomiti lo sì, fa lo o faccio, no? Sì, sì. Ah, lo fa? Sì, sì. Adesso, no? Quando è? Adesso, la settimana prossima, domenica. Ah, domenica, quanto dura? Dipende quanto sei bravo. No, appunto, no, ma per lei quanto dura? Per me dura 7 ore. 7 ore? Quanti chilometri sono? Sono 130 chilometri, ma soprattutto 3.000 rotti metri di salita. Senta, un'ultima sono domanda. Sono 7 passi. Sette passi? No. Sento l'orgoglio del ciclista. Senta, ma lei è appassionato di poesia, l'ho letto nella sua biografia, di chi soprattutto? Quali sono i poeti che le piacciono? Mi piacciono tutti i poeti bravi, che, cioè, poi cambio a seconda dell'umore. Sì, a seconda dell'umore. Ma mi dice quello che, insomma, adesso, due o tre, quello adesso che sto su cosa adesso, concentrato? Non lo dico perché siamo a Roma, sto rileggendo il Giambattista Marino, che è un poeta non tanto facile, perché stiamo parlando del 600, quindi... Ma non lo dico perché c'è il sindaco a Roma, non c'entra niente. Senza è Maria. Capitato così. Ma è un caso di omonimia. Sì, sì, sì. Va bene, grazie, prego. Auguri. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità.